Anticorpi Bolognesi nasce dal Costola Buggei di Bologna ed è stato un tentativo, è un tentativo perché è tuttora in corso, di raccontare un po' tutte le azioni sociali che sono state messe in campo durante il periodo della pandemia, sia nella fase 1, nella fase di chiusura, quindi partendo un po' dal racconto della città trasformata, una città vuota, una città deserta, anche paurosa per me che giravo per le strade vuote di questa città, insomma, metteva abbastanza angoscia, paura, ma non limitarsi a questo, ma soprattutto di mostrare, di raccontare quegli anticorpi, gli abitanti di Bologna, le associazioni, gli attivisti, i centri sociali hanno messo in atto come anche un po' risposta ai tanti problemi sociali che poi sono derivati e che anche nei prossimi mesi saranno sempre più visibili per colpa di questa emergenza. Per raccontare questa situazione voi avete utilizzato diversi linguaggi che appunto non solo, come dire, lo scritto, ma anche le immagini. Sì, le immagini, la fotografia è il nostro punto centrale, anche come rivista che appunto parla di fotogiornalismo e offre lavori di fotogiornalismo, ma questa volta abbiamo cercato anche di sperimentare il linguaggio visuale in altre direzioni, attraverso le illustrazioni di Elle, attraverso i manifesti, poster di Vittorio Giannitelli, cercando di ibridare, di mettere insieme linguaggi diversi che, uniti al testo, potessero insomma diventare un racconto ancora più completo e sperimentale, ecco. E il progetto ha attivato un crowdfunding, a cosa serve e appunto chi è rivolto? Sì, perché la prima parte del progetto l'abbiamo pubblicata sulla nostra rivista, su Buggei, poi l'idea era quella di portare avanti il lavoro, di approfondirlo già, insomma la prima parte è stato un lavoro corposo perché sono state pubblicate più di 100 immagini in un PDF di 150 pagine, quindi un vero lavoro di approfondimento, ma d'accordo con gli altri del team di questo progetto abbiamo deciso di continuare, di portarlo avanti per poi trasformarlo in un libro, questo progetto, con il racconto di 12 storie, appunto 12 anticorpi che la città ha messo in campo, e non solo con questo obiettivo. Abbiamo attivato appunto la campagna di crowdfunding per raccogliere i soldi per arrivare alla pubblicazione del libro, allo stesso tempo per un minimo compenso alle professionalità, alle competenze che hanno lavorato su questo progetto, ma anche per sostenere due di questi progetti sociali che sono stati attivati sulla città, e nello specifico le staffette alimentari partigiane, che è un progetto nato dai Abbasta con la BA e con il TPO, e Don Panic, che è un'altra azione solidaria che è nata da una rete di associazioni che si sono messe insieme per dare un sostegno alle persone, alle famiglie più svantaggiate, e quindi un modo anche per dimostrare come la fotografia, oltre ad essere riconosciuta, cosa che lo è poco in realtà in questo paese, ancora di più per questo tipo di fotografia, quindi per il fotogiornalismo, possa essere non solo una forma per raccontare delle storie, per farle emergere, per farle vedere, ma anche poi come delle fotografie, delle immagini possono anche essere nel pratico, nel concreto, utili per sostenere delle azioni sociali. Dove bisogna andare per sostenere, appunto, per partecipare al crowdfunding? Per partecipare al crowdfunding basta andare sulla piattaforma Produzioni dal Basso, dove si trova il progetto Anticorpi Bolognesi, dove si può sostenere la campagna partendo da donazioni minime, prendendo delle cartoline piuttosto che delle stampe, oppure prenotando il libro in questa fase. Tra l'altro poi noi siamo inseriti anche nella piattaforma di Banca Etica, sempre su Produzioni dal Basso, essendo soci della banca.